Siamo pieni di novità, a partire dalla New Mégane che è appena stata lanciata sul mercato italiano, sia nella versione berlina che nella versione coupé. Poi abbiamo la Laguna Coupé, quindi l'alto di gamma di Renault, molto affascinante anche grazie al telaio 4Control, quindi con le quattro ruote sterzanti. Poi abbiamo ovviamente per gli appassionati, visto che parliamo di motor show, le vetture più pepate, quindi presentiamo la Twingo RS, anche questa è una vettura da poco lanciata, un piccolo bolide da 133 cavalli che può sicuramente far divertire giovani ma anche meno giovani. Poi avremo ovviamente anche Koleos, il nostro crossover che ci permette di entrare in un segmento dove noi fino all'anno scorso non eravamo presenti. E poi direi grande cosa importante, non dimentichiamoci anche la Laguna GT e il resto della gamma Laguna, perché anche in questo caso vetture alto di gamma.